154. Pasta sfoglia. La bellezza di questa pasta è che gonfiando sfogli bene e riesca leggera. Quindi è di difficile fattura per chi non vi ha molta pratica. Bisognerebbe vederla fare da un maestro capace. Ma nonostante, mi proverò di insegnarvela alla meglio se mi riesce. Farina fine o d'ungheria, grammi 200. Burro grammi 150, oppure farina grammi 300, burro grammi 200. Spegnete d'inverno la farina con acqua calda, ma non bollente, sale quanto basta, una cucchiaiata di acquavite e burro quanto una noce, levandolo dai suddetti 150 o 200 grammi. Formato che ne avrete un pane non troppo sodo né troppo tenero, lavoratelo moltissimo, mezz'ora almeno, prima con le mani, poi gettandolo con forza contro la spianatoia. Fatene un pane rettangolare, involtatelo in un canovaccio e lasciatelo un poco in riposo. Frattanto lavorate il burro, se è sodo, con una mano bagnata nell'acqua sopra la spianatoia per renderlo pastoso e tenero tutto ugualmente. Poi formatene un pane come quello della farina e gettatelo in una catinella d'acqua fresca. Quando la pasta sarà riposata, levate il burro dall'acqua, asciugatelo con un pannolino e infarinatelo tutto per bene. Spianate la pasta col matterello soltanto quanto è necessario per rinchiudervi dentro il pane di burro. Questo si pone nel mezzo e gli si tirano sopra i lembi della pasta, unendole insieme con le dita e procurando che aderisca al burro in tutte le parti, onde non resti aria fra mezzo. Cominciate ora a spianarla prima con le mani, poi col matterello, assottigliandola la prima volta più che potete, avvertendo che il burro non sbuzzi. Se questo avviene, gettate subito, dove il burro apparisce, un po' di farina e di farina spolverizzate pure spesso la spianatoia e il matterello a ciò che la pasta scorra e si distenda sotto al medesimo. Eseguita la prima spianatura, ripiegate la pasta in tre, come sarebbero tre sfoglie soprammesse, e di nuovo spianatela a una discreta grossezza. Questa operazione ripetetela per 6 volte in tutto, lasciando di tratto in tratto riposare la pasta per 10 minuti. All'ultima, che sarebbe la settima, ripiegatela in due, e riducetela alla grossezza che occorre, cioè qualcosa meno di 1 centimetro. Eccettuata quest'ultima piegatura, procurate di dare alla pasta ogni volta che la tirate la forma rettangolare, 3 volte più lunga che larga, e se apparissero delle gallozze per aria rimasta, bucatele con uno spillo. Meglio della spianatoia comune, servirebbe una tavola di marmo che è più fredda e più levigata. Nell'estate è necessario il ghiaccio, tanto per assodare il burro prima di adoperarlo, quanto per tirar meglio la pasta, il che si ottiene passando il ghiaccio quando occorra sopra la pasta stessa, entro a un canovaccio ben fitto, o meglio, messa fra 2 piatti coperti di ghiaccio. Con la pasta sfoglia si fanno, come sapete, i vol-au-vent, i pasticcini con marmellata o conserve e torte ripiene di marzapane. Se volete servirvi dei pasticcini per tramezzo, allora riempiteli con un battuto delicato di carne, fegatini e animelle. Ma in tutte le maniere queste paste vanno dorate col rosso d'uovo alla superficie, ma non sugli orli, per non impedire il rigonfiamento. Se servono per dolce, spolverizzatele calde con zucchero a velo. 155. Pasta sfoglia a metà. Metà burro del peso della farina e di più un pezzetto dentro la pasta. Per il resto, vedi il numero precedente.